scelto loro. Cioè, grazie. Pure quello hai, minchia. C'è avuto la mano, certo. Non sto lì a girarmi le balle, volevo comprare il compro. Claudio è un capitalista. Non ho capito, cioè, vi state accavallando, qual è il problema? Beh, io se c'è soldi investo in cose che mi piacciono, tutto normale, no? Come fanno un po' tutti. Questo mi piaceva e me lo sono comprato. Ma che cazzo sì? Dov'è la tappiniera? Aspetta. Allora, infatti, non devo nudare nessuno, quindi va bene. Posso dirlo, per gli anni che io posso camminare a testa alta, veramente. Con tutte e due le teste. Bisogna portare lo scettro, no? Tipo la, come che si chiama, quella che si passano, quelli che fanno quella cosa, il maratonetto, no? La staffetta, no? Che si passano quella specie di torcia l'uno o l'altro, bisogna tenere l'alta, no? Guarda, te l'ho mandata. Tanto guarda a questo, adesso ti mando la foto di questo, mi ha mandato questa collezione, dice, se la vuoi tutta fammi un'offerta, ma te pare io aggiudibiliare che tal roba, dici, e questo cos'è che qui aspetta? No, prima infatti, guarda, ti mando queste due foto, metto, fammi un'offerta, allora ti mando, allora questa è quella dei microfoni, una, due, tre e quattro, guarda, sono quattro foto, te le mando tutte e quattro, vuoi fare un'offerta mi manda tutto, ma io montinaggio, ma cosa me ne voto, ragazzi, allucinato, cosa mai faccio sta roba? Sì, già c'è roba che potrebbe servire, ma boh, secondo me no, non me ne faccio niente. Dai un'occhiata, boh, apri, guarda bene, un bel baracchino, ci sono anche base, qua c'è anche il 140, e ci sono anche base, c'è il Galaxy Saturn Echo, però boh, mi sembra Mondetta a me. Da come è messa, uno è nato all'altro Mondetta. Ma è tua forma offerta, boh, cosa ne dici? Ce n'è di radio, ci sono anche radio belle, ma messe così, tutte ammontonate, a me sembra un porcaccione, guarda i microfoni, ma detto fammi un'offerta per i microfoni, già a metà di quelli lì ce li ho io i microfoni, cosa me ne faccio? Antonio più due non apprezzo, se no te l'avrei dato, ci ho messo anni per trovarlo così come il mio, se no te l'avrei dato volentieri. Ah boh, non lo so, mi ha mandato queste foto, non lo so, mi ha detto fammi un'offerta, io non so né che offerta farli e se poi tutta mondezza, perché vedi come sono messe le radio, non sono ordinate, sono proprio buttate lì in questi scaffali, a me tenere le radio così non mi piace, tu. Boh, non lo so, boh, ci devo pensare, dai, comunque ci devo pensare. Marco, l'hai vista? Sì, sì, quella è spettacolare, la conoscevo già, quella era una piccola leggenda. Costava anche un saccaccio di soldi da nuova. I 750 euro costava la nuova, io l'ho pagata a 350, mica me l'hanno regalata. Se 200 dix, sì, è quello che c'è a lineare sotto la pancia. 280 è il prezzo suo. E tu tieni conto, io l'ho provata in 10 metri da modulati 180 watt. In AM già hai visto cosa va, quindi non è bugia, no? È realtà. Va bene, va bene. No, vabbè, io l'ho pagata a 350 perché mi ha dato anche il microfono sulla tavola, il tunnel più 3B, capito? In quelle radio, vero? È Mondetta, secondo me. Forse c'è qualche radio bellina, ho visto c'è un Galaxy, c'è un 140, c'è un M60, ho visto altre radio. Ma ha detto, sono tutti baracchini, non me ne faccio niente, cosa me ne faccio? Sto gioco di Zendi che è una cagata, boh. Vabbè. Adesso l'ho comprato, dico, ascolta, devi togliere tutti da lì, me li metti tutti in fila, uno sopra l'altro, a due, puliti, ordinati, e mi fai vedere cosa sono. Ok, quello che mi piace io ti mando un messaggio e ti dico, mandami questo, questo e questo, gli altri di cui a pittorra. No, lui vuole fare un blocco, ma io le propongo di farmeli vedere bene, perché così io non li vedo, per me è Mondetta così. Non lo so, tu, devo capire bene, se lui non mi fa capire bene io non le prendo niente, capito? Io le posso fare un'offerta, se lui me le mette tutti bene in fila, puliti, ordinati, e capire che cosa c'è, anche tutti quei microfoni, hai visto cosa c'è? Ci sono 4-5 tranne più 2, 5-6 tranne più 3, poi c'è l'SBE, sono tutti i microfoni che ho io, non me ne voglio nulla di chi, io sto prendendo microfoni che non ho, tipo l'Expander 500 alla Turner, tranne più 2 da tavolo, quello della Perception con l'asta che si solleva, quello della Gain Quinto da tavolo che è difficile da trovare, cioè microfoni che non trovi, che altro me ne faccio io di 5 tanne più 3, Nagio 2 tanne più 3, infatti mi sembrava una tattica che quello infatti è così, sto guardando anch'io, sì, vabbè, adesso le farò un'offerta, vediamo, secondo quello che mi dice va bene, se no si ridene. Avanti Riccardo. Ehi, sono qui, comunque, sono tornato adesso. Ok, dai, vediamo se senti a Claudio. Avanti Claudio per Riccardo. Sì, positivo, Claudio, ti ascolto benissimo adesso. E adesso ha smesso e ti ascolto bene così. Ehi, se la smette, intanto ti ripeto, io Claudio so già da dove è la portante. So già perfettamente a dov'è perché ho fatto una prova in direttiva e l'ho scoperto, quindi se la smette perché adesso a Sassari di Rusoi se Caraviga, due già seccato le balle, ok? Vai Anto. Brecco. Avanti il Brecco, chi è? Sì, un secondo che chiudo la porta. Ma c'è un break, avanti. Ah, non sto uscendo? Sì, avanti Massimiliano. Ok, no, perché sono preoccupato, va. Ciao Riccardo, ciao Claudio, chi c'è qua? Ci sono io, poi c'è Claudio D'Amuro, c'è Riccardino, Antonio Riserva, poi l'altro sono tutti pariti. Ok, no. Ciao Riccardo, buonasera, ben entrato, cioè ben ascoltato. E ciao anche a Claudio D'Amuro, se non so se lo ascolto. Vai Claudio. Sì. Va bene Claudio. Molto bene, ok. Sì, c'è un po' di propagazione ancora. Riccardo, vai per Massimiliano, poi Massimiliano mi dici se va bene quello che ci siamo detti al telefono. Avanti Riccardo. Ok, lo saluto a Massimiliano, ciao Massimiliano, ben ascoltato anche a te. Sì, stai andando benissimo, sei sempre forte. Ok, va bene. Sì, Claudio, Puntella. Oh, secondo me Claudio non mi ascolta. Cosa? Scusa che entra Tanna, cosa hai detto Massimiliano? Ti ho rilanciato, ti ho detto a Puntella. No, scusa, è entrata Tana che sta uscendo a prendere due cosette a farsi una passeggiata e quindi mi ha distratto. Puntello, quindi, questo è quello che ti ho detto, connessione diretta, va bene? Perfetto. Puntelliamo, infatti sono con la potenza massima della radio, è alta potenza, ok? Andare, va benissimo. Perché c'era la portante, però fa capito, e quindi ho dato un po' più di gas, ma se vuoi lo stacco. Non è un problema, tanto tu anche se c'è la portante la superi benissimo, dai. Mi dovete scusare, Cla, ma il corriere è arrivato un po' in ritardo mi sono tornato a... Aspetta, corriere, gli ho sistemato un po' questa televisione, la stanno tutta configurando. Aspetta, mi hanno chiamato. KK, va bene. Riprendi Riccardì che devo dare dei soldi a mia moglie, un secondo che sto uscendo a fare la spesa, aspetta. Claudio, ti volevo dire comunque, quando c'hai qualche affare in sospeso che non ti interessa, pensami che io sono sempre disponibile. Ma per che cosa? Per l'MC80? No, per tutto, tutte le cose radio che riguardano la 27. Ah, ok. Diglielo a Fabrizio che io ho un MC80. Se ti può interessare ci mettiamo d'accordo, Ricca. Secondo me per la tua modulazione va meglio del 60, capito? È molto bello, è flessibile, è sempre della Kenwood, non è un microfono, capito? Diglielo a Fabrizio, se ti può interessare te lo do io, non c'è problema. Sì, anche Turner, se il Turner da tavolo anche. Ah, l'Expander 500, quello della Turner, quello è mitico, quello non ce l'ha nessuno. No, microfoni da tavolo anche per il Kenwood, tipo Turner, che quelli sono buoni. Sì, ma se tu devi usare quel K, così chiamato, ti conviene usare i suoi microfoni, quindi se vuoi io ti faccio provare l'MC80, se ti va bene te lo prendi, se no me lo restituisci, non è un problema. Oppure anche per i miei vintage, tipo se trovi qualche Turner, tipo 4 pin. ce l'ho l'Expander 500 a 4 punte io, poi c'ho un altro Turner lo stesso, ce li ho tutti a 4 pinni io, capito Riccardi? Quelli che a te non ti interessano, che ne hai in più. Vabbè, ne parliamo, allora ci diamo appuntamento da Roberto una mattina e ne parliamo, qua in radio non mi va Riccardo, capito? Ne ho tanta di roba che ti può interessare, ne parliamo di persona, ok? Certo, ti capisco Claudio, ne parliamo in verticale. Perché è brutto stare qua, sembra che stiamo facendo mercatino, dai. Io ti dico cosa ho, se ti interessa te la do, la trovi e poi ci mettiamo d'accordo, ok? Un attimino di bianco per me, Claudio, riprendi? Sì, positivo, mi conferma. Comunque arrivi forte. Sì, lo so, sono belle radio, i Kenwood soprattutto. So però che i 440 li devi accendere tutti i giorni. È meglio tipo quello che ho adesso, il 430. Molto bella anche la linea IAESU. È molto bella la linea Sommer Camp, quelle radio che poi si è trasformata in IAESU. Ho ripreso Claudio, mi senti? Però io Claudio lavoro, se c'è un medico RM, c'è un medico di propagazione non ti ascolto. Se c'è qualcosa per poter arrivare meglio, perché io ho QRM a Santiago 7, cosa ha detto Riccardo? Ha detto che non può adesso con l'Alan 48, adesso è liscio, non può attaccare neanche i lineari. Claudio, andato via. Massimiliano ha detto che non gli funzionano i lineari per il momento, li deve aggiustare. Ecco. Vabbè dai, quando siamo in condizioni migliori, Claudio Damura, se ci ascoltiamo, là. Perché c'è un po' di QRM un po' altino, là. Ok. Dicevo, Claudio Sparviero ha mollato, ha chiuso. Ciao Rica. Si sarà allontanato un attimo. Aspetta un attimo, Massimiliano, che riprendo subito. Ah, ok, va bene, vai Rica. In effetti stasera c'è molto QRM. A quanto ce l'hai tu, Rica? Ora, che nessuno mi ascolta. Rica, a quanto ce l'hai il QRM? Alto? A 4 ce l'ho, se qualche volta sale anche più forte. Stavo controllando a quanto ce l'avevo. Ok, va bene. Ok, mi sembra di aver sentito un break in mezzo al QRM, mi sembra, Ciao, dammi un controllo, come sto uscendo? Anche di Cardino, stavamo la tela di Giovanna, dall'altra parte del palazzo. Sto uscendo Santiago 3, Radio 5. Segnale 3, va bene, e a te Massimiliano fatto che arrivo 2. Se mi sembra modulato un po', stavo dicendo Santiago 3, Radio 4. Già va bene allora Riccardino. Avanti, chi è che mi chiama? Ciao Riccardino, sono Mirko. Chi è? Mi chiamo Mirko, sono di Sassari, tu? Ciao, ben sentito. Ciao anche a te. Come ti chiami, non ho capito? Mirko. Ciao Mirko, ben ascoltato. Grazie. Ma tu da che zona stai modulando? Potresti ripetere, non ho capito. Da che zona stai modulando di Sassari? A Carbonati, tu? Da Filigheddu, la parte alta di Filigheddu. Ah sì, se lo prende anche dove. Ma chi è tuo nipote, Alessio? Non si può prendere più nulla, no. Alessio, va bene, là, bianco per me, ci sentiamo dopo, ciao. Ciao. Ciao Bulldozer, a più tardi. Ciao Riccardo, tanto non vi sento, ciao. Ma Riccardino, tu sei in seconda media? Migo, non ti sento bene, ci stanno coprendo, c'è propagazione forte. Sei in seconda media, ho chiesto. Ah, sì, positivo. Anch'io. No, mi fa piacere. Io praticamente sto alla scuola alla 12. Pure io. Ma se vuoi dirmi in che classe sei? Seconda H. Seconda H. Io sono in F. Ma chi sei? Dimmi il tuo nome. Ah, Mirko mi hai detto. Ma a te. Già ti conosco Mirko. E secondo me ti conosco già anche io. Ma da quando è che stai iniziando a modulare? Non ho capito. Quando hai iniziato a modulare, a parlare al baracchino? Di solito questa qua è la montatura di mio zio, quindi io sto parlando adesso da solo di baracchino. Ho capito, va bene. Ma tu sei in classe con Emanuele Macis? E si conferma. Non ho capito. Positivo, e il mio compagno è? Per lui era come l'elementare, Emanuele. Abbiamo un amico in comune, quindi. Già ho capito chi sei. Questa scuola l'ho capito anch'io chi sei tu. Sì, ho capito, Ma tu mi sai dire con che apparato stai parlando, con che baracchino stai parlando? Quello di mio zio. Ah, ok, vabbè. A te la parola. Ok, cosa mi racconti? Sono rientrato e Massimiliano, sono qua. Massimiliano è scappato. Vabbè, comunque ti racconto che in questa quarantena qua mi sto alquanto rompendo, però sto uscendo dalle campagne di papà per fare un sicuro, tanto per non annoiare, comunque di mia amica. Non sei solo, meno male c'è la radio, la frequenza 27 MHz. Meno male. Ti rendo vicino, almeno ci colleghiamo, così che invece che stare tutto il giorno dentro casa, io di solito vengo qui alla radio. Non puoi ripetere. Con chi stai parlando, Ricca? Con un mio compagno, sta vicino alla mia classe, siamo compagni di scuola. Ma chi è? Ma abita qua vicino a casa mia, dove abita? Carbonazzi. Io ho detto che io sono il figlio di Coca-Cola. Ah, infatti l'avevo intuito dal segnale che sei figlio di Giovanna. Va bene, continuate, dai, Ricca. Ok, a dopo. Ciao, Claudia. Ciao. No, assolutamente, per il momento sono tutti funzionanti, dille. Eia, ok, saluto a Claudio Sparvirizzo da Torre di Controllo. Cappa, dai, ci sentiamo dopo, ok? Che devo fare delle prove in alta frequenza, a dopo. Eia, facciamo andare avanti anche a Mirko. Tu non lo ascolti, ha chiuso arrugginito da muro. Sì, positivo, sta modulando a Carbonazzi. Sì, ci sono. Un po' difficoltà a tirarti fuori, c'è quel REM e anche un po' di propagazione, è per quello. Ciao. Sono progresso Claudio. Ciao, ben sentito, Alessio qua. E mia nipote è questo, il fratello di Ida Saverna. Ah, il figlio, no, vabbè, ti lascio con lui, là, che io sto uscendo un attimino, ci sentiamo dopo. Claudio, come si sta lì a Muros adesso? Come si sta lì a Muros in questo tempo difficile? E lì Babbo è venuto a volare dove c'è la croce. Ho capito, è nell'atterraggio al campo sportivo. Ho capito, sì, comunque per questa cosa la certificazione si sa che nei paesi è un pochino diverso dalle grandi città tipo Sassari. Ma nei paesi è proprio diversa, la vita si sta meglio, non ci sono tutte le restrizioni, i controlli, tutto quello che succede a Sassari, è meglio stare in un paesino. Sì, Filigheddu, comunque almeno siamo un po' isolati a Sassari, che è un bordello, è meglio stare qui in campagna. Ho capito, Claudio, ma dall'accento non mi sembri di Muros. Ho capito, va bene. Ma c'è ancora Mirko? Sì, ci sono, sono in ascolto. Dai, Mirko, parla un po', facci sognare che non entri mai. Ok. Niente, pensavo anche dire che quando stavo andando a fare una passeggiata ho visto che c'era questo ospedale qua davanti a me dove c'era una specie di tenda che profonda piena di ghiaccio. Era tossico meno, però so che gli facevano i vaccini. Ho capito. Ma Muros, Claudio, ti arriva forte lì Mirko o è basso? È una zona più aperta verso di sé. Ma quello che tu ricordo abiti vicino a Carbonazzi o lontano? No, abito in campagna, a Filigheddu e dall'altra parte. Quindi insomma non tanto distante. Più o meno non è neanche così distante. Sassari dicono che è una delle città barra che è tipo non è che mi sento molto, però dicono che ci sono più contagi tipo in Sardegna che in altri posti. Cos'hai detto, più contagi? Esatto. Ma migliorando la situazione. In Sardegna siamo arrivati a solo un contagio, sta terminato il lockdown e quindi adesso sta andando meglio rispetto ad altre regioni. Siamo i migliori con meno contagi. Se guardi la Lombardia, sono tipo 450 contagi contagiati. Anche poco in Lombardia in confronto a qua. Almeno noi il mare lo vediamo, visto che Conte dice che non possiamo spostarci di regione, e quindi almeno noi il mare possiamo andare al mare. Beh, Conte adesso piano piano iniziano a riaprire tutto quanto, cioè allora hanno riaperto già alcuni locali e sempre se Conte vorrà si potrà andare anche al mare. Però ancora non si può fare il bagno, bisogna aspettare nuove informazioni. Cioè, se devono controllare anche l'acqua, non casino. Infatti, spero che si sblocchi un po' quasi tutto, che almeno potremo fare molte più cose, perché in quarantena adesso ci stiamo annoiando, quasi quasi ho visto alcuni che pur di che finisca la quarantena tornino a scuola. Break da Brick. Brick da Brick? Sicuramente se l'ascolto. Io sono Bracco. No, soltanto un controllo e poi volevo sapere se è Roberto. No, negativo, Roberto non c'è, però ti potrei dare il controllo. E dimmi, come mi ricevi? Riccardo, adesso hai messo, diciamo, qualcosa di nuovo, ti ricevo bene, meno male. Meno male, anche a te ti ascolto bene comunque. Sei 9 compiti positivi a 9.5 e una radio super 5. Ho capito. No, io meno male sono riuscito a aggiustare l'apparecchio, no? L'apparecchio in 144, 430, no, per riadematore naturalmente, no? Me l'hanno messo a posto. E quindi sto modulando anche con degli amici, perché stiamo accordando degli apparecchi. Qualche volta entro anche qua naturalmente. No, adesso devo telefonare a Roberto per fare una prova appunto su questo apparecchio, se mi richiede bene. No, non su questo, sull'altro, il 144. Comunque stai arrivando bene. Va bene, ti passo il microfono a Claudio Di Muros, se ci sei ancora, per salutare a Bracco. Infatti io ti dicevo bene, anche se diciamo come segnale non è molto alto, dico sinceramente 3-4, radio comunque ultima. Ma l'altra sera mi sembra che stavamo durando tuo padre e lo ricevevo più forte, però. E Ocafa, io vi lascio la cioè questa greca, come si chiama, mi sembra che è stato un greco, non so che cos'era. Comunque io rilancio il micro a Riccardino. Ok, Bracco, alle prossime. Fatti sentire anche tu un po' di più, so che visto che sei radioamatore vai anche su altre bande, però ti vorremmo sentire di più il 27. Lo so, quando posso già entro che qua, vai, tranquillo. Ok, ciao Bracco, alle prossime. Anche per me un piacere. A domani. Bracco, ci sei ancora? Sì, dimmi. Ma tu lo senti a Mirko? A chi? Un altro CB, un nuovo CB tipo me. Non lo senti? Allora vieni avanti, vediamo. Sentite? Allora vieni avanti. Break? Sì, avanti break, chi? Mi sentite? Dai, buonasera a tutti, Gianni Doppio Rum. Ci sta entrando la propagazione, vi avviso. Un attimino solo, Doppio Rum. No, c'è un amico che vuol sapere se lo copi, avanti. Mirko, vieni avanti, ti chiamano. Mi sentite? Sì, ti copio, dai, ti copio, vabbè. Mirko mi ha mai detto, no? Sì. Ti copio Santiago circa 6 o 7, dai. Doppio Rum. Avanti. Cosa ti ha svegliato la propagazione? No, negativo, stavo ascoltando, dai, la verità è questa. Ciao Gianni. Ciao Marco. Comunque Gianni, ti saluto, ben ascoltato. E ciao, ben sentito anche a te, dai. Stavo giocando a pallacanestro. Ciao Chioda Ruginito, ben sentito anche a te, dai. Ciao Claudio, Chioda Ruginito. Come mi copi con 3 watt miseri? Ah, vabbè, non è malaccio, dai, tu sei 8, più di 8, tra 8 e 8 e mezzo, è radio altrettanto buona. E Riccardo, a te quanto ti arriva Mirko? Qui è sul intorno al circa 8, dai. Qui è un po' bassino, però è buona la radio, lo sento grazie alla radio. Comunque, ti saluto Marco, anche a te. Ehi, ciao Ricca. Giovanni Bracco, do interrogativo. Avrebbe risolto poi per il ricetrasmettitore VHF lì? Sì, sì, risolto. Risolto, sai cosa c'è? Una fesseria comunque. Diciamo che l'attacco di dietro del ricetrasmettitore, per sbaglio, non so se l'avevo fatto io o qualche altro, abbiamo, diciamo, cercato di collegarlo tramite il PL di quelle che si usano in baracchina, eccetera, mentre l'attacco, diciamo, giusto del ricetrasmettitore 144 è un altro formato, adesso mi ricordo se è L o cosa, no? Ecco, e avevamo spanato, diciamo, all'interno proprio di questo attacco, o come si chiama, quindi non si collegava né in trasmissione né in ricezione, e me l'ha risolto, diciamo, Walter, da IS0 o Sierra Whisky mi ha risolto il problema. È stato molto gentile perché le ho rotto veramente le scatole, perché è venuto qua 3-4 volte, stavamo provando giorni e giorni, finalmente, perché non si riusciva a capire cos'era, perché l'apparecchio in realtà assorbiva, no? E dava l'impressione che usciva, no? Però non mi sentivano né nulla, e quindi c'era da sbattersi la testa, guarda, solo gente esperta poteva risolvere quel problema, ed era una fesseria comunque è stato risolto. Ok, tira anche il micro. K, sì, quello probabile che abbia l'attacco N di Napoli, oppure certi hanno l'attacco PL come il baracchino, però l'N è migliore per quelle bande lì. Ok, va bene. Gianni, io rilancio te, io sto cercando di cucinare qualcosa, quindi sono in ricezione. Vai Gianni. Gianni? Vabbè, riprendete voi, vai Ricca. Ok, comunque sì, Mirko sta andando bene, comunque, soprattutto di radio, lo conoscevo anche, invece con questa cosa del virus sta entrando anche lui in frequenza. Ciupe ciù. Aspetta, ciao, 2 minuti. Scusatemi, io faccio un attimo QRT e torno fra un po', quando c'è anche qualcun altro. È un po' langue qua, d'altronde io sono ai fornelli, dai, mi viene un po' difficile rispondere. Forse Gianni si è spostato o si è allontanato dalla radio, dai. Va bene, dai, più tardi, ritenetevi tutti salutati. Ciao, che io dallo Ginitto. Comunque amo quel film da cui tu hai preso il nominativo, è molto divertente, all'inizio è tragico un po' verso la fine, molto carino. E ciao anche a Giovanni Bracco, ciao a tutti, ciao. Ok, grazie Claudio, ci sentiamo più tardi, anche da parte mia faccio vado in QRX e torno anche quando c'è qualcun altro. Saluto a te, Claudio Di Muros, poi c'è Carlito, un saluto Doppio Room, Marco, Mirko e a tutti gli altri eventualmente in ascolto. Non riprende. Ah, domanda, una curiosità, Claudio, tu ti ricordi? Allora, io ho visto solo il primo film, gli altri non li ho mai visti, perché per non rovinare la perfezione del primo film, tu ti ricordi per caso, cioè io lo so, ma volevo sapere se lo ricordavi, che baracchino avevano i due ragazzi nella macchina? Esatto, bravo, è una marca che hanno in America, allora è il Cherokee Knight Rider 150 ed è tipo il 3009 cromato e ha AM e bande laterali. C'ho una foto presa dal video da YouTube, me lo sono conservato. Il loro era un po' mal ridotto perché le avevano dato assieme alla macchina, mi pare di ricordare, no? E l'antenna pure, proprio quello lì, Cherokee Knight Rider 150, e tutte marche da noi non arrivano mai. Poi per farlo più figo, per fare il film più figaccioso, hanno sostituito lo Smitter a lancetta con uno Smitter a LED, infatti era più carino l'effetto. Ehi, AK. Sì, io per esempio sto usando un 3009, il tipo quello 40 canali solo, 4 watt, quello omologato, poi il filtro mi ruba 1 watt, quindi sono 3 watt reali. Allora, gli altri film non li ho guardati, se tu mi dici che vale la pena, che sono a livello del primo, e vedo di trovare il DVD da qualche parte, da Amazon eccetera, insomma da qualche parte lo troverò, anche YouTube oppure in streaming, e quelli non li ho visti, sono curioso di vederli, anche per vedere che radio ci sono. Poi un'altra cosa, Claudio, se tu leggi Roger K, quel sito di CBR Radio Amatori italiano, credo sia il più grande sito, avevano fatto una sezione, un topic, no, una discussione, dove bisognava mettere le foto di tutti i baracchini visti in tutti i film possibili, tutti i film esistenti, film tipo anche quello dei camionisti, adesso non mi ricordo il nome, che praticamente facevano una specie di rivolta ai camionisti americani, anche quello mi era piaciuto, e c'erano nomi tipo Anatra di Gomma e roba del genere, una figata quei film, tutti i film inizi fine 70 inizio 80, un istante mi sono dovuto allontanare un attimo a mettere il sale nell'acqua, e ho sentito la prima parte ma non la seconda parte. Comunque ho capito che te apprezzi il genere, dai, soprattutto dove si vedono radio, caspita. Sì, su Roger K mettevano tutte le radio possibili viste nei film, film di tutti, di qualsiasi anno fosse, così proprio. Anche quei film all'italiana, tipo quelle vecchie radio della polizia anni 70, che erano poi delle scatolette con due luci, proprio bruttine quelle, vabbè, ma quelle servivano per servizio. Mi pare che addirittura funzionassero molto in basso, tipo VHF bassa, molto bassa, tipo 38-40 MHz, chi lo sa, poi bisognerebbe chiedere ai diretti interessati. Ok, allora Claudio, presto ti saluto, così butto la pasta e ci sentiremo in altre occasioni, dai Marco, Core X momentaneo, ciao. Hola, c'è qualcuno? Attento 10, c'è qualcuno? Avevamo dei tortellini freschi aperti, tortellini con la carne tipo fresco, no? E si sarebbero guassati, allora li ho fatti però con la panna, perché il sugo mi stava facendo un po' di bruciore già, e anche mamma sta preferendo la pasta in bianco col, o in bianco comunque, oppure tortellini con panna, che non al sugo. E tu che sugo usi? Già lo sai che io non è che prendo i pomodori, li passo, io prendo sughi Barilla, roba pronta. Non, qua non stiamo bene da, non fisicamente, oggi proprio guarda, non te ne dico. Cioè non ci abbiamo proprio voglia di stare a. Una volta lo facevamo, ci facevamo il sugo noi, no? Adesso non è più tempo, mi piacerebbe poterlo fare però. Ma quei sughi lì sono, quei sughi pronti sono acidi. Io prendo gli Antonella, lo faccio io, il sugo mi viene un bombo, buonissimo. Gli Antonella secondo me sono gli unici pelati buoni. Prendo la polpa Antonella e faccio il sugo con quelli. molto buono, quelli non ci devi aggiungere manco zucchero perché sono acidi. No, se Antonella per me sono number one, qua. E niente. Comunque questa storia del bruciore la sto facendo anche a me la sera, lo sai. Prima stavo mangiando di più, quindi sto mangiando meno, salgono i succhi gastrici, probabilmente non trovano la roba da mangiare e mi provocano bruciore. Sto prendendo il Diger, oppure lo sai che cosa devi fare quando c'è bruciore di stomaco? Bene il latte, te lo fa passare immediatamente. E io, bravo, esatto. Anche io facevo così, perché fa da tampone, no, si, come dire, me l'ha spiegato mia zia, sai quando il latte comincia a fare, nello stomaco si trasforma, fa una sostanza tipo ricottosa, no? Proprio tampona l'acido. Ma sai perché io? Perché io tra i pasticci che mangio, i dolci, e la Nutella, e i succhi di frutta in bricche, quelli ti fanno venire un bruciore di notte che non ti dico. Se tutte, io l'alimentazione mia è brutta, a me piace mangiare pasticci, basta che siano buoni. Ho comprato, Marco, questi wafer al cioccolato da MD che sono una bontà, infatti ci devo tornare a comprarli. Tanta quanto sono buoni, sembrano fatti di riso, col riso no, dall'interno solo, c'è il cioccolato, c'è coso, wafer e riso, ma sono di una bontà unica. Già ne hanno roba buona. Poi vabbè, c'è chi per partito preso critiche discount, però per attirare a lui i clienti, poi ne parliamo in separata sede. Bene, allora qua avevano chiuso tutti, poi loro sono sul 30, mi pare che stanno provando microfoni, è tutto qui, dai, io mi finisco, cioè, ho appena iniziato la porzione, casomai se vuoi andare ad ascoltare là già, perché io qua, sai, non riesco a mangiare e parlare, a meno che non faccio no, come quello di Paoletto, che dice una volta gli hanno riparato il microfono, dentro c'era il tutto, bavetta secca, pezzettini di mortadella e chissà che altro. Cava, va bene, dai, vado là allora ad ascoltare, dai, poi vieni là a chiamare. Maria, ciao già, dai, ci sentiamo. Buon appetito e grazie altrettanto. Maria, a 380, dai, ciao. Avanti, chi è su canale 10? Chi è che chiama su canale 10? Sì, chi sei? Qui Alfa 21 dal QTH di Sassari, nord della Sardegna. Qual è il tuo QRZ o il tuo QTH? Ho capito, mi sai dire per caso la città giusta? Perché ti dico, io mi segno tutte le volte che faccio il QSO. Ok, scusa, mi potresti ripetere il tuo nominativo? Ok, perfetto, sultano. Come ho detto, qui Alfa 21 dal QTH di Sassari, nord della Sardegna. Mi potresti dire così le tue condizioni di lavoro? Ok, grazie, sì, le mie condizioni che sto parlando con l'antenna è una Sirio Blizzard 2700. Mi stai sentendo così forte perché sto usando un buon apparecchio, un Kenwood 430. Kenwood TS 430S. Ok, bene sultano. Comunque ti ho perso l'ultimo passaggio che stanno mettendo portante, sono gli spiritosi di Sassari. Chi c'è sul 10? Io Roberto, collegando con Sultano, si chiama, da provincia di Verona. Sultano? Sì, si chiama Sultano, dalla provincia di Verona. Buonasera. Anche noi eravamo sul 30, dai, facciamo venire qua adesso. Ciao Gianni, perché dice c'era un po' di movimento, mi ha detto Massimiliano, allora gli dico a venire sul 10, dai. Registrato, va. Per andare voi, noi ci spostiamo, gli faccio venire a Massimiliano e Antonio Riserva qua sul 10. Attenzione Sultano, se ascolti il doppio rum dalla Sardegna, cambio. Ma se n'è andato Sultano? Aspetta che sta parlando. Ok, dai, io ci sono. Chi c'è qua? Aspetta, sta parlando Sultano dalla provincia di Verona. Comunque ti saluto, sei da 351 e mi ha fatto piacere ascoltarti e fare un questo con te. Avanti Sultano, se ci sei ancora sul 10. Cazzo, arrivi due. Ciao, sono entrato. Ma chi era entrato? Claudio Lamuro. Ehi, ciao, ben sentito. Cazzo, c'ho il QRM a 9 oggi, altissimo, mamma mia. Speriamo che si abbassi un pochettino. Ciao di nuovo Riccardino, ti ascolto benissimo. Ciao Gianni, anche a te stessa cosa, perfetti. C'era il Massimiliano, adesso vediamo se si è spostato, è andato a venire qua in riserva, non so, l'ho chiamato, però non so se mi abbia sentito perché non mi ha risposto. Massimiliano, ci sono? Sì, ci sono, ok. Ciao Gianni, ciao Riccardo, ciao Claudio. C'eravamo prima, noi ci siamo un po' spostati. Ma non l'avete sentito a Sultano? Non l'ho detto a Sultano. Provincia di Verona ha detto. Lo stavo chiamando, se c'era ancora, si deve essere spostato, boh. Io l'ho sentito basso, ma proprio un livello QRM era. No, comunque qua era forte già. Probabilmente poi si è abbassata la propagazione. Vabbè, cioè, non è possibile, stavo facendo DX e si mette quello con la portante a coprirlo. Anche quello è un divertimento, dai, c'è qualcuno che si diverte, cosa puoi fare? Purtroppo c'è anche quelle persone lì, bisogna metterle in conto. C'è gente che si diverte in quel modo, altri si divertono come noi a parlare, a far parlare anche le altre persone, e poi ci sono quelli che godono a fare queste cose. Purtroppo così va la vita, ci sono le persone belle, brutte, cattive, buone, di tutto c'è. Ho capito, comunque vi saluto a tutti, sono entrato perché c'era questo Sultano e come ho detto saluto a tutti, a Massimiliano, Roberto, Gianni, Claudio e a tutti gli altri, se mi sto dimenticando qualcuno. Scusate, Bianco, telefono un attimo. Scappa, dai, riprendi Massimiliano, buonasera. Ciao Gianni, buonasera, dai, buonasera. E noi eravamo qua un po' prima, va, quando c'era il Riccardino con questo Mirko. E poi c'era un casino di QRM, ci siamo spostati nel 30, che era un calore pulito. Sì, stavo ascoltando, va, mi stavo ascoltando. Stavo facendo cose e mi stavo ascoltando lo stesso sul 30. È entrato Marco qua e me l'ha detto lui che eravate sul 30, quindi ho girato e vi ho ascoltato lì. E gabagava. E Marco stava mangiando, quindi dovrebbe aver finito adesso. Marco! Ma adesso devo anche digerire, no? E fai il routino. Lo fallo il routino, Guarda, se volete farmi la tinta ai capelli o colpi di sole, ve lo faccio. Va. No, non sarebbe... Dai. Dov'è Massimiliano? Se non nasce di bene, cosa vuoi fare? Mi puoi fare un colore? E coloriamo anche la pelle, tutto. Che schifo che... Adesso tatuano tutto, Massimiliano. Tatuano anche i capelli. Sì, lo so. No, ma capellucci è meglio, compreso. Sì, no, non li vedi più. Una volta tatuati non li vedi più. Sì, vabbè, quei 3 euro che mi sono rimasti ce li lasciamo. Giusto per tappare le tegole d'inverno. Mi stanno chiamando un attimo, torno subito da dentro casa. Cava. No, io già ce li ho lunghi, sembro tarda dei poveri. Devo andare dal barbero, ho preso l'appuntamento, me l'ha fatto sabato addirittura. Io sono 15 anni che non vado al barbiere già. Ma gli ho comprato una macchinetta e per un baghettaggio, ogni a 2 piedi, ria, tutta a terra. Anch'io uso la macchinetta, Gianni. Io ce l'ho, ma dietro mi viene male a me, dai, no, non fa. Se non c'è nessuno che te li faccia dietro, bene, che ti tagli bene i peluzzi che rimangono e tutto. Sì, basta imparare a fare, io me li faccio da solo, a me non me li fa nessuno dietro. Basta imparare, piano piano, e impari. Vabbè, a me, diciamo, la linea della nuca me la fa mamma con la macchinetta. Poi, se ci sono eventuali peluria sul collo, quelle li tolgo col rasoio da barba. E viene liscio. No, perché se, per come me la penso io, per non tagliare i capelli si prendono anche troppo. Non lo so, io con la macchinetta ho risparmiato un bel di soldi, tanto io li faccio pari, non mi faccio le pettinature stravaganti, cioè taglio, devono essere tutti pari, è la macchinetta ideale, è come una tosa a pecore. E io uguale, va, addirittura le tolgo tutti i pettinini e lascio solo la macchinetta nuda, come mamma l'ha fatta, e così non sbagli neanche lo spessore. Io uso spessore, aspetta, che pettinino è? Vabbè. No, vabbè, io ho i capelli bene o male, finché durano, poi quando cominciano a sparire, anch'io altro di spessore zero, lì, come dire, pettinino numero zero. No, io niente, né zero né nulla. Sì, vabbè, quello lì è il taglio proprio a zero, quello senza pettinino. Taglio a zero quello lì, da tutti faccio anche il rasoio. Massimiliano, dimmi, atteso quello che ti ho detto, poi anche il rasoio ti passi? No, negativo, io ogni 10 giorni passo tutto, non me ne crescono così di peli a me nel collo, non ne ho. Cavagaba, Lucarie, quando ti arriva questo apparecchio? Questo apparecchio mi arriva, Massimiliano ha detto intorno a lunedì martedì. Cavagava. Aspetta che arrivi, chi così? Che se non arrivi allora mi si girano i pipilisti. No, che già ti arriva, tranquillo. Che sei un coso, sei un radioamatore, già sarà serio sicuramente, perché lo posso rintracciare. Gianni, oppure io mi posso spacciare per Claudio, mi. Cosa avventa? Io mi so buttare, ti cercaio, cosa mi soggo? Una volta nuda, ora ti pago in questo spazio a Pavalte, per Marco. Però male che risulta, ma bisogna essere Edu. Vabbè, bisogna avere anche un po' di fiducia, un minimo, dai, non tanta, ma un minimo bisogna averlo. E già ne hai esperienza a due, se te li butti due burate, te li butti un mattone dentro. Vabbè, là, avanti Massimiliano. A me non mi hanno spedito proprio nulla, non è che mi hanno fatto il mattone, nulla, non mi hanno spedito niente, era un'associazione a delinquere che si spostava da un paese all'altro, tipo Inghilterra, Francia, facevano vita da nababi, così mi ha detto la polizia postale, che facevano un sacco di soldi, anche 100.000 euro al giorno. Poi ha detto è un'organizzazione difficile da trovare perché si spostano, ritirano i soldi, poi si spostano, non li trovi più. Sono tornato comunque, ho ascoltato il finalino che state però i parrucchieri, di barbieri cioè. Sì, stavamo appunto dicendo che io sembro tarda dei poveri perché ho i capelli lunghi e il barbiere mi ha dato l'appuntamento sabato addirittura, dice che c'ha un bel di gente. Oh, meno male, io sono riuscito anche io a prendere l'appuntamento. E quando? Il 5 giugno. Cazzarola! Dove vai dal barbiere? A Pattada, immaginati tu quanta gente c'è. Perché a Pattada e non a Sassari? Mamma lavora a Pattada, di solito mi porta e mi sono abituato che me li fa lì i capelli. Ah, ecco. Quindi pattadese ce ne sono a casa tua. Ma pensa tu che me l'ha dato il 5 giugno ed è aperto già da adesso, quindi quanta gente che ci sarà, saranno tutti fiondati dal barbiere. Infatti si rifaranno in fretta di 2 mesi di negozio chiuso. Sono rientrato signor. Sì, si rifanno, ma si fanno anche il mazzo lavorando, cazzo. Cioè, prima niente, poi di colpo tutto gatto di goi. Poi addirittura nel mio sono in due, sono padre e figlio che lavorano, tutti e due con diplomi, eccetera. Però se la prendono un bel con calma, non sono di quelli che fanno l'impresa, tranquilli, parlano, tagliano i capelli tranquillamente, ma molto adagiati lavorando. E anche lì a Pattada, chiacchieri con quello, mica, non è di quelli veloci, vai tagliati, dammi i soldi e ciao, sono un po' più diversi anche lì nei paesi. Gianni, fatti fare i capelli come Malgioglio. Sì, è cosa mi hai pigliato, ma chi? Sei tu che ti sei innamorato di tuo marito. Mi sono innamorato ma di tuo marito. Vai Roberto. Sì, allora prima di me facciamo prendere a Claudio la Muros, perché troppe volte lasciamo in disparte. Avanti Claudio. Sì. Ehi, ok, chi è rimasto? Allora facciamo un riepilogo. Claudio, non so se ci sia ancora Massimiliano, doppio room, Riccardino, Marco, poi chi c'è qua? Riserva, è entrata Antonio Riserva. Il numero uno in assoluto, è boh, e non ce n'è per nessuno. Cacca, tu rado, boh, spegnete i baracchini come dice Tino, spegnete tutto. È arrivato il Re Leone. Il Re Leone sia. Se mio fosse della mia esiste. Quello che esce di filo che fa wow. No dai, mi sto cambiando, proseguite, comunque ci sono anch'io qua, buonasera a tutti di nuovo, dai, sono rientrato. Ehi, Riccardo dice che hai trovato un amico tuo di scuola qua, vero? Sì, quel Mirko. Ma è compagno di scuola o di classe? No, di scuola, praticamente siamo vicini, io sto in F e lui in H, è attaccata. Ed è nipote di Antonello, pompo. A quanto ho capito. Ma figlio di Giovanna? Oh, sì, ho sentito, io non ho sentito. È il figlio di Coca-Cola. Quindi visto, abbiamo due nuove entrate. Insomma, adesso tutta la famiglia di Pompo, c'è Pomponio che modo, la sorella, il nipote, adesso ci metteranno su quel condominio cinquantenne. Ma mia salentita che fate in mamma, uia uia. Anche io, minestra lenticchia. E beh, pirata, quando mi servi non ci sei mai. Pirata? Allora, se ha detto pirata ha detto a me, dimmi. Io ho detto, quando ti voglio non ci sei mai. Nathalie, telefono, numero di telefono vale sempre, quando vuoi. Lo so, ma è per non disturbare. Guarda, siccome ho molti impegni io mi... oggi ero mezzo cadavere pure, adesso mi sono ripreso un po'. Va, riprendete. Come sempre stanco sei tu, Marco. Magari avrei disturbato, sei di mezzo cadavere e sei risuscitato poco fa. Ehi, vabbè, a parte che sono sempre mezzo cadavere, oggi sì, mi sentivo un po' più male, proprio male essere generale, un po' male di testa, dormito male, ho saltato la terapia, cosa abbastanza grave, e quindi devo stare attento, se no l'endocrinologo mi spella vivo, vai Robè. Io che sto scherzando naturalmente, dai, anche io ho un po' di sonnolenza, forse dormo poco la notte, dormo poche ore, e non è un sonno ristoratore, dai, quello mi rompe le scatole. Ok, vediamo un pochettino, Gianni, doppio room, facci sognare. Ve lo dico anche io, che la notte mi alzo due, tre volte per andare in bagno, poi questo, poi l'altro, insomma, sto gira che più rigira nel letto, e anche io sono così. Poi mi assopisco la mattina e niente. E c'è sempre magari qualcuno che chiama o suona il campanello, mi scendono subito presto e quindi non recupero mai. Dopo pranzo mi recupero un po'. Tu lavori ma io posso recuperare dopo pranzo, dai. Beh, a te che lo puoi fare, dai. Ok, vediamo un pochettino. Muros, avanti a te il mic. Eia, ok, Riccardino, avanti a te il mic. Ok, vado avanti io, stavo guardando un attimo quella cosa della stazione spaziale, stava passando adesso ma non si vede comunque. E niente. Comunque sì, come ho detto, praticamente è mio compagno di scuola, ci conoscevamo anche già da prima. Guarda che ti sto mandando qualche foto, guarda quel mobile dove ci sono quei pochi microfoni. Bene, bene Riccardo, dai, almeno c'è qualcuno della tua età che parla con te. Oh, ma hai pure il 555? Io? No, Massimiliano. No. E di chi è? Non si dice. In tre almeno ce l'abbiamo. Scusati. Allora Riccardo, in tre ce l'abbiamo, almeno in tre. Ah, Riccardo, quei tablet ti piace. Eia, me lo sto guardando bene. Sì, però bello, bello. A me piace più il normale che quello digitale. Di che cosa? Del 3009. Ti piace più quello con il frequenzimetro? K. Quello normale, quello che non è digitale. Perché quelli digitali basta che tocchi, che sposti tutto, fai, boh, invece quello lì come ti rubano rimani. E così è stato con la macchina fotografica, cavolo, quella digitale, ho comprato una macchina professionale, sono girato mezzo a Sardegna facendo facendo un tema sulle chiese bizantine eccetera eccetera, e poi mio nipote l'ho scaricato in una pennina, mio nipote toccando me l'ha cancellato, ho fatto chilometri e chilometri, me ne è varata la cosa, ho preso e l'ho regalata. Oh, Massimiliano, sono rientrato, eccomi qua. Massimiliano, dimmi. No, non avevo vista la foto dei microfoni, no, c'è da sentirsi male. Questo è spacciato dei microfoni, Massimiliano. Perché quelli che ho mandato io che sono dentro l'armadio non li hai visti, ricca? No, ma dove li hai mandati? No, te li ho mandati a te. Vabbè, ma lì Massimiliano hai controllato bene, sono tutti doppi, tutti danne più 3, danne più 2, c'è un SBE. Non sono 1111, capito? Ma di che quella roba, Massimiliano? Roba tua? La roba tua è Massimiliano, la foto che mi hai mandato. Allora, regale. Io pensavo che fosse, come stessi dicendo Claudio. No, ho capito che la roba tua, però pensavo che fosse di qualche altro, per come è entrato Claudio a dire. No, che questa è solo roba mia. Questo è tutto roba mia. Sei spacciatore di baracchini e di microfoni. Io ho mandato una foto a Antonio Riserva, ho aperto l'armadio e gli ho fatto vedere che c'è anche la mensola imbarcata. Gli ho fatto vedere tutta la roba che c'è dentro. Ci saranno una decina di microfoni già, capito? Tutti uno diverso dall'altro, e anche Massimiliano già ne ha. In questi anni ne ho speso un po' di soldini. E vabbè, te l'ho detto Massimiliano, muoviti a finire con la base, poi ti fai la L come ho fatto io, e ti metti tutto dentro, tutto sulla base. E dopo faccio la L e dopo faccio un po' quelle fotografie come sta vendi. E infatti vendiamo tutto d'ora. Ah, sì. Compro vendo. Troppo più mio, l'iPhone, non ha più dato problemi, e più, aiuto, fammi qualche offerta, perché me lo devo fare nuovo, là, non mi modifico quel 3009, tutto a nuovo però, Ma chi io? No, a Gianni, ce ne fa un'offerta per il iPhone 2. No, non compro nulla, non compro niente. Compro, vendo, scambio. Sì, via. Scambio per te. Pazienza. Ti ho comprato una radio, cazzo, Massimiliano. Oh, yeah. Bella. Allora, non c'è 3009, no? Quella radio, quando arriva, perché tu hai fatto male a farla arrivare a te, tu dovevi dare direttamente il numero di Sabatino, così faceva da Roma a Napoli. Ehi, cazzo. È detta che dietro non incappo di là, Dai, Massimiliano, dai. Già, con due baracchini ci ho speso 350 euro. Quello ti fa un mostro, 350 euro, due baracchini, tu. Cosa? 350 euro, due baracchini. 125, 3009, 228. Allora, io vi dico, però che non fumo, tu non fumi, io fumo però. Un colpo giro 351, madre di Dios. Ma uno però che si va a 250 watt, cioè, stiamo parlando di una radio baracchino serio, Ehi, vabbè, allora, mi affido a te. Il prossimo acquisto 440 voglio, mi affido a te. Io il mio, io mi tengo il 430 al 140, almeno sei sicuro. Si va proprio nel mio abito contigo. Non se c'è problema, me lo ritorni e ti restituisco i soldi, almeno non hai problemi, capite? Non c'è problema, io quando vendo bene, e questa è completa di tutto però, non è, capito? Questa c'ha scheda fonemi, c'ha tutti i filtri, c'ha tutto quello che serve, tutto. Poi la vedi come esce, quindi è nuova. Sì, una la vendo, mi tengo il 430, do il 440 e il 140 mi tengo. Basta mi fa un pezzo da picco. Vabbè dai, non ne parliamo qua, futti dindi. Comunque buona la pasta, visto due cucchiaiate, la pasta delle antiche di mamma, ma buona veramente. Sai che per te c'è un motto solo, non c'è nessun problema, come vuoi, quando vuoi, sempre, vita natural durante, hai capito Lu? Hai capito? Non c'è nessun problema. Sì, però con il 60, se no non è un 440, con la saponetta non fa. No, io ti do la saponetta, ti ti do la scatola sua originale, ti do il cavo suo originale a tre fasce, a quattro fasce di alimentazione, non quei cavi che danno zingari, un rosso e nero, io ti do il suo originale Kenwood, tutto Kenwood, capito? Manuale, microfono originale, cavo originale e scatola, hai capito? In modo che quando lo vedi a prezzo pieno perché è completo, non è che tagliate che vendi, non c'ho il cavo suo originale, non c'ho il suo microfono originale, l'ho perso, ma vai Scimini dal guru. Vai Massimi. Dai, mica c'è Claudio Rugginoso da Muro, dai. Riprendi qua. Sì, sì. Riprende chi? Io. Tuo padre era sezione Ari di Olbia. Quello è alla sezione Ari di Olbia.